Ça va? Ça va bien, monsieur. Ça va bien? Così, cosa? Che hai fatto, Natalino? Sto dicendo bene. Sparito. Ma scusa, mi ero spostato, che stavo parlando con la 50. Ho detto, cosa hai combinato che stai dicendo bene? Niente, non ho combinato nulla. Mi sta arrivando più forte oggi. Sta piovendo qua, c'ho l'antenna piena d'acqua, infatti non è che possa parlare molto, no? Sì, ma sta arrivando più forte, sei quasi 9. Ah, cappa, boh. Non ho toccato nulla io, la verità. È migliorata anche come radio. Può darsi, non lo so. È la solita radio, Non ho toccato niente. Se non è che va meglio con le stazionarie, boh. Perché c'ho stazionarie, capito? Ma sei sicuro che ce li hai? 1,7 ne ho e non posso parlare perché ne ho 1,7. Aspetta un attimo. Ammi, guarda. Aspetta, Un attimo, mi te lo dico subito. 1,7, avevo ragione. Non ti credere che sia una cosa esagerata, fai passaggi cortini e puoi parlare. Infatti, è così sto facendo. Io come ti arrivo? Fai. 1, 2, 3, prova, vai. Allora, Santiago 7, Radio 5. Oggi di meno, boh. Vai tu e capisci qualcosa. Prova che forse c'avevo l'attenuatore. Ah, ecco, perché insomma dovrei arrivare intorno al 9. È sempre così, vabbè che oggi sta piovendo, magari attenua un po', boh. No, sì, 9 con picchi di 9,5. Non la smette più di piovere. E cosa vuoi ti dica? Infatti io sto temendo perché questa l'antenna la devo buttare giù e mi è arrivata quella nuova, però devo aspettare che faccia un po' di tempo buono per poterla piazzare. Mi ho comprato la Game Master, capito? Ah, già va bene. Già è una buona antenna. E infatti. C'ho il microfono lontano quanto è tutto il braccio, bene va la radio. Sì, molto, è buona, molto chiara. Ciao Mario, buongiorno. Io sono Claudio di Foro Torres. E l'amico di Sassari è Natalino. Non so se riesce a copiarsi. Avanti Natalino. No, non lo copio perché c'ho un po' di QRM qua. Tu è perché passi il QRM che ti sento, capito? Mario, niente, non ti copia Sassari. Anche la posizione è buona lì per fare di Marai, dove c'è quella specie di rotonda lì. Lì è abbastanza buona. E così. E Natalino Mario sta dicendo che non ti sente purtroppo, che è macchina, che sta provando a cambiare posizione. Purtroppo io ho l'antenna bassa e piena d'acqua. Quando metterò la Game Master già la metto più in alto, dovrei sentire a tutti. E anch'io la devo cambiare tra un po', la cambio anch'io perché questa c'ha troppo QRM e mi sono stufato di tutto questo rumore. La Game Master è molto silenziosa come antenna, Io mi ho preso quella per quel motivo lì, perché dice che è molto silenziosa, che ce l'ha un amico, e poi pompa come antenna. La metterò un po' più in alto, così almeno sento i corrispondenti. Molti che arrivano più bassini, che non passano il QRM, non li sento per quello, perché mi dà troppo QRM questa antenna. Sì, quando è così è un problema. La Game Master l'ho avuta anch'io per un breve periodo, solo che io abito a fronte mare e il vento me la stava piegando in due, ho avuto paura che si rompesse e l'ho tolta. Mario, ci sei? Sì, può darsi da lì, sì. Può darsi da lì, sì. Natalino, io adesso sono in ballo con due antenne, sto valutando. Ho la J-Pole, quella che stava provando Claudio. O se no una Grad fiori. Si converrebbe la Jeepol che è silenziosa, a quanto stava dicendo Claudio, perché la Grazioli non lo so se da QRM come quella che hai. Per il silenzio ti consiglio la Jeepol, se non vuoi mettere la Game Master, capito? Anche perché è molto più forte della Game Master, la Jeepol. Ricevi molto più bene, dici. Sì, quello sì. Ma se tu dai un'occhiata su YouTube e vedi la prova, c'è una prova, Grazioli, Jeepol, e come a quanto pare, come QRM è molto bassa, ne riceve molto, ma molto poco a livello di Game Master. E poi come trasmissione con la J4 più o meno si equivalgono. Insomma, vedi tu, capito Clara, cosa vuoi che ti dica? Io purtroppo, non avendola provata, non ti posso dire quale va meglio. Io mi prendo quella lì perché è leggera, anche io siccome ho l'antenna messa in un po', in una maniera un po' così, devo prendere un'antenna leggera, se no io ho una Mantova 5 che se ne sta ridendo sopra 12 metri di palo nell'altra casa. E io ho la 1 adesso, sto parlando con la 1. Vedi, quella che hai tu è la più silenziosa che c'è delle Mantova, perché la 5 è più rumorosa della 1. Eppure c'ho un sacco di QRM, adesso ce l'ho a 6. E anche io ce l'ho alto il QRM, e questa è una BA27L, adesso si chiama Energy, però è uguale alla BA27L, 5 ottavi d'onda. E ho capito. Riprova Mario che l'hai sovramodulato. Claudio, purtroppo mi devo spostare che devo riempire il serbatoio della stufa, dai, ci sentiamo più tardi. Va bene, ciao Natalina, più tardi. Non ti ha sentito Mario? Sì, in effetti c'è l'aria molto sporca. C'è un sacco di robaccia in giro nell'aria, con quello sì. No, ho fatto le prove con la Game Master che l'ho tenuta una settimana circa e come QRM era abbastanza molto basso. Sì, quello sì. Ma vicino a casa c'è un ripetitore telefonico, alto 30 metri, ci sono 40 antenne attaccate, può darsi che sia pure quello, ma ho visto che mettendo un dipolo non lo prendo più, lo rumore non ne sento più, però col dipolo non è che vai molto lontano, per la 27. E poi stavo guardando che esistono i filtri di rete, dei filtri di rete che li utilizzano anche nelle sale di registrazione, cioè per eliminare tutti i ronzii, vari disturbi elettrici, eccetera. Ci sono questi filtri di rete che sono una mano da cielo. No, quella è un'altra cosa, quello lì è QRM Eliminator. Quella è un'altra cosa, filtro di rete è un'altra cosa ancora. Sì, stavo guardando anche questo e siccome che ce ne sono di diversi vantaggi, in base al carico che devi mettere, e quindi con più bassi vantaggi costa senza dubbio di meno. Comunque ho visto uno che può andare bene per tutti intorno alle 100 euro, poi ce n'è anche di meno, ma è meglio non accedere alla bontà dell'attrezzo. Filtro di rete 220, sto parlando di elettricità 220, e quello va a monte, no? Lo attacchi, lo colleghi a una spia di casa e poi da lì ti colleghi tutto quello che concerne la radio. È una cosa che più o meno ci siamo tutti, che siamo tutti in battaglia. Sì, comunque comunque un attrezzo che si ripara, si ripara perché ci elimina tutto, qualsiasi problema di rete che c'è in casa. Una spina mezza massa, una ciabatta che sta partendo, una presa di corrente mezza, insomma, e toglie tutti questi problemi, elimina tutti i rumori. Sì, comunque per vedervi non è un problema, vai, accedi su eBay e sulla ricerca metti filtro di rete e te ne saltano fuori 50.000. Ce ne sono anche singoli per utenza singola, ad esempio per una spina solo, però quelli sono così così. Comunque dare un'occhiata te la puoi dare. Ma penso che ci sia qualcosa, c'è un po' di tutto lì sopra, penso che ci sia. Dovresti un po' scriverti le marche su eBay e poi provare su AliExpress. No, con uno piccolo, un omologato, Mobicon 40. Ecco. Avanti Brecco, buongiorno. Buongiorno, buona domenica a tutti. Un controllo di segnale di radio, non la potete dare per cortesia? Senz'altro, 9.5, radio ottima. E zona di modulazione? Porto Torres. Grazie, ti ringrazio. Contraccambio del rapporto 5-9. Comunque California da questo, da Sassari. Ok, rapporto anche per l'altro amico 5-8. Ok, grazie e buona domenica. Buona domenica a te. Salutato Mario, salutato. Sì, comunque quel filtro di rete è una cosa che ci vuole, specialmente noi che non abbiamo massa a terra, purtroppo anche io ho un problema in casa, nemmeno io qua ce l'ho. Sto pensando di farla in qualche maniera, ma non ho ancora studiato come. Non è che posso fare processo lì, mi arrestano insomma, e a casa, a giardino non ne ho e quindi sono costretto a fare così. Io l'avevo comprata per me. di zecca, e la tre metri e spiccioletti così, funziona benissimo, non bene, non benissimo. E la tengo come emergenza, come antenna di... non si sa mai. Comunque questo, io adesso ho la Mantova 1 ed è abbastanza in buono stato, non è né corrosa né rotta né niente. La voglio cambiare giusto così per vedere se vado meglio, chi lo sa, magari avrò le stesse condizioni. Thank you. cambiando tutto, il tempo è cambiato, adesso le raffiche sono più forti e abbiamo visto qualche tromba d'aria, speriamo che non ne passano più, ma è, insomma, ci vuole un'antenna bella ancorata, forte, e un impianto fatto bene. C'è un tetto di un terrazzo di 10 metri lungo, in questo momento ne ho tre antenne piazzate, ho una predisposizione per un, anche per un dipolo già sali scendi, insomma, però metto il vento da tutti e tre i lati, forte forte. C'è qualcuno in ascolto? Perciò dovrei andare bene lo stesso, Poi vabbè. Due, tre metri più di palo, un palo è una differenza. Ma te rifaccio un attimo sul trezza. Ok. Perciò bisogna valutare bene, insomma, posizione, eccetera, insomma. Faccio affezionato a quella, senza QRM, con segnali alla grande, vabbè, pazienza, aspetto, penso che prima di Natale me la rimandi giù. Va bene, il cambio per Claudio, comunque il consiglio che ti do io è quello di comprare la Smart Tech J-Pol anziché la Game Master, perché la Game Master rispetto alla Smart Tech J-Pol, uno perché si è trattati la Smart Tech, due perché è molto più robusta e funziona molto molto meglio di quella, spendi 20 euro in più, poi ognuno fa quello che le pare e le piace, ok? Io posso montarne 10 di antenne qua nel giardino e provarle tutte, Mantova, Smart Tech, Game Master, Rizzolio come si chiama, Guidaroli, Tortellini e Spaghetti, posso fare quello che voglio, ma non faccio niente perché questa prevale su tutte le antenne della 27, non c'è niente da fare. Vai Claudio, buona domenica a tutti, ci sentiamo più tardi, ciao. Ciao Claudio, buona domenica. Faremo anche queste prove, va bene. Mario, tu sei lì nel piazzaletto, lì nel Tropical? Sì. Ciao Claudio, buona giornata, buona domenica, che c'è? Sentiamo. Sì, sono qua, sono di fronte, no? Se non erro. Quelle qua sono già le scale, sì, no, dove c'è la chiesa? Guarda, io adesso sto uscendo a fare un po' di spesa per mia moglie, passo e ti saluto. Su 10? 110, c'è qualcuno? Attenzione 10, c'è qualcuno? CQ 10, c'è qualcuno all'ascolto? Ebbene Natalino. Oh, ciao Robè. Io ho chiamato poco fa, stavo per uscire, ho preso se c'è qualcuno. E io sono rientrato adesso, praticamente ero fuori. Ma c'è freddo oggi, mi pare, no? Quando sono uscito io già c'era freddo, adesso già sta scaldando, è uscito il sole. Ma forse era previsto un po' di acqua comunque. Ora, mamma mia. Hai trovato lei questo affare che stavi cercando? Quale affare, Robè? Adesso non me lo ricordo. Alla GBC mi ha detto che stavi cercando qualcosa, non mi ricordo. No, l'ho ordinata da fuori. E cos'era? Ricordami, non mi ricordo. Un'antenna, cos'era? L'antenna. Ah, giusto che me l'avevi detto, che poi mi ha detto ieri, sono tutto suonando, guarda. Non c'è nessuno? Ho visto che non c'è nessuno. Io ho attaccato quella colonnina esterna che c'avevo, quella dell'ala, quella che c'ha i filtri. E che colonnina è? Di che marca? Alan. Quella grande che vende la GBC. Ha staccato che cosa? L'altoparlante? Un altoparlante dell'Alan. Non la conosco. È esterna, no, ma colonnina esterna. Ne ho due qua, una l'ho attaccata al ricevitore e una qua. No, vabbè, anche io lavoro tutto con un altoparlante esterno, c'ho l'SP23 Kenwood, il 940, quello è una bomba della Kenwood, poi c'ho quello della Yaesu, l'SP901 che è enorme, in ferro, e mano più 4,40, di altezza è più grande del 4,40, è appena più piccolo. Mi stavi parlando di un accordatore l'altro giorno, al limite me lo dici per telefono, Robè. Ma accordatore di che genere? Manuale. Ma questo è grosso, non è il mio, ce l'hanno lasciato qua a vedere, è l'MT3000. Canto Luguriani. 200 euro, però sinceramente qualche lavoretto bisogna farle perché era un po' manomesso. L'apparecchio è valido perché li paghi non meno di 300 euro quell'apparecchio. Però ha fatto delle modifiche e all'esterno dove si attaccano le antenne, sinceramente non è che mi piacciono molto. E allora lasciamo perdere. Bisogna sistemarlo, prima dovevo provare bene, quando ho 5 minuti di tempo e poi lo mettiamo in vendita, perché è inutile dare una cosa e poi mi viene a seccarmi. E infatti poi se così 200 mi sembra anche troppo. diciamo è vecchio di età, però questi durano un'eternità, ce l'ho io, questo che sto usando adesso l'MT3000, a corda anche un pezzo di filo di ferro, però lui ha fatto, non so per quale motivo, dove ci sono i connettori, ha messo delle bobine, non so che ha fatto, le ha sdoppiati, non lo so, si possono togliere, però è bene provarlo prima. Vediamo se qualcuno vuole entrare sul canale 10, c'ho il QRM a 8, ma è una cosa allucinante. Solo per i saluti domenicali, pace e bene a tutti. E vediamo, no, così c'era, come si chiamava Natali, quel tipo, quello anziano che era amico di Giulio, che abitava dalle tue parti, come si chiama? Quello anziano che era amico di Giulio, che abitava dalle mie parti, non me lo ricordo. Amico Giulio è amico tuo, che poi morto qualche anno fa, che quando entrava sembrava il Papa, c'aveva una voce, come si chiama? Aiutami, Porto Pilato. Ah, quello lì era il mio vicino di casa, era... Sì, Ponzio Pilato. Adesso come è entrato Gianfranco, sembrava lui, mi ha ricordato lui, una calma, tranquillo, signori, buona giornata, buona domenica. Comunque pace e bene, padre Gianfranco. Però vedo dal coso delle presenze che a messa siete tutti disertori, eh? Oh, ci sta bacchettandomi. Qua sta piovendo a dirotto e sta piovendo lo stesso. Sta piovendo acqua, eh. Vabbè, e allora? E allora siamo qua, dovevo forse uscire, ma non so se ne ho voglia, devo prendere qualcosina, ma mi manca la voglia, lo sai. Io l'ho già fatto invece. Sono rientrato, ma non stava piovendo, adesso ne sta scendendo il cielo invece. Quindi è fatto in tempo in tempo. Forse qua non è ancora arrivato perché il cielo è limpido, ci sono delle nuvole bianche, ma non è ancora arrivata l'acqua. A me è sembrato di vedere Natalino passando là, che era sul tetto e non riusciva a piazzare l'antenna. Tu eri Natalino? Insieme a Marco Scorpio, ci avevamo le bobine dei fili con la mantellina. Ma infatti vi ho visto che avete fatto un groviglio di fili con quel cavo fino e non riuscivate più a sbrogliarlo. E quindi ogni tanto qualcuno scivolava, si attaccava al filo, si rimbrigliava, guarda. Tipo Stan Leulio, te lo ricordi su quella comica di Stan Leulio che piazzavano con l'antenna per la radio? Anche il fumaiolo è crollato. Figurati. Ma le risate ci facevamo con Marco, prendendo i dipoli, ragazzi, notte è tempo, di notte mi, se non vedete. È così. Io ho finito di fare un tracciato perché mi meravigliavo di ricevere Olbia. Devo sapere come mai ricevevo Olbia e adesso c'ho un tracciato da qua verso Olbia e vedo che passo proprio nel buco, nella valle che c'è tra Osilo e Santa Vittoria, il monte di Santa Vittoria. Tiro dritto e passo sempre leggermente a destra di Monte Limbara. Quindi pelo pelo, proprio un colpo di fortuna. Così come sento anche Santa Teresa, però passo sul lato sinistro, te le immagini che razza di giri. Questo è un VHF ovviamente. Sul Monte Limbara ci salivo con il povero Mario Planetta. Ci salivo. S0PGT, se non ricordo male. Però c'ha tutte le attrezzature, la famiglia però non vuole dare niente, la moglie. Sì, ma c'ha tutta roba vecchia, cosa ne fai? No, è amico, la moglie di lei, amico, è amica personale della moglie di un carissimo amico mio. C'hanno tutto in scatola, le rottuglie, le cose, sicuramente roba vecchia, magari ti trovi qualche bell'apparato di vecchia generazione, non lo so. Io non sono aggiornato, quanti anni che manca in frequenza quell'uomo? Chi sono ricordabile. Natali, da quanto manca? Non me lo ricordo da un bel po'. Mentre invece per te, Robè, mi sembra che la cosa sia più in salita. Forse altro perché c'hai metà piedi il coso lì, come si chiama? Ma la salita lì che c'è, non è neanche usilo, è proprio quella salita che c'è molto vicino che ti taglia le gambe. Bisogna provare qua per vedere. Adesso quando metto l'antenna, è arrivata, ti ho detto, venerdì mi è arrivata l'antenna, aveva ancorato l'olio dalla scatola, e metto il palo, metterò non ne volevo mettere troppo alto di pali, perché posso salire 6 metri di lì, perché ho anche palo buono, lo faccio salire sui 4 metri. Dai. Lo so, ma tanto la... prima di superare quella collina ce ne vuole tanto. È un'informazione, tu ovviamente c'hai quell'antenna che ho visto e va bene, però siccome è una bibanda quella, hai provato se senti l'R1 Monte di Bara? L'hai sentito o no? No, non ho provato perché tra l'altro mi devo... ho scaricato le frequenze, però sono scritte talmente in piccolo quel programma, non mi ricordo come si chiama, ci sono tutti i punti di tutta Italia, più quelli della Corsica e San Marino, della costa azzurra, ci sono tutti i punti, però è scritto talmente in piccolo, me lo devo ingrandire, proprio sono tutto ravvicinato, potevano mettere più pagine, invece le hanno raccolte in 13 pagine e hanno messo i caratteri che ti nascono in luce per vedere. È quello di... aspetta, 2 kilo, una cosa del genere, quell'elenco, si dove fa io. Quindi anche tu sei cibio, va bene così allora. Non mi lamento più. Che ti volevo dire? Non mi interessa saperlo se già in quelle condizioni, anche se va male di lì, almeno in ricezione si dovrebbe sentire qualche cosa. Dato che quello lì è separato, se non ricordo male, non lo puoi accendere che ti mando 4 colpi importanti e mi dici se lo senti, è a 4, aspetta, un attimino, me lo sono dimenticato, è 0,25 ma non mi ricordo l'inizio, 4,30 0,25, sì, 4,31 0,25. Ciaia. No, ma tornando alla vista, grazie a Dio vedo perfettamente, soprattutto da vicino, magari perdo un pochettino da lontano, da vicino ho l'occhio di gatto, come dice qualcuno, finché mi dura. Considerando l'età normalmente è il contrario, invece a me mi è durata la vista da vicino, infatti vedo tutto, anche le monetine, quelle scritture piccoline che ci sono nelle monete. Il problema è che scritto in piccolo ti devi un po', ci sono tutte le righe, una attaccata all'altra, magari ti sovrappone. Provato 430 0,25, se vuoi lo sintonizzi un attimo e ti faccio una chiamata e mi dici se lo senti, e su Monte Limbara 430 0,25. Un secondino, scusa un attimo Natalia. Fai, già sono qui io. Tu lo senti Natalia? Tu dovresti avere un antennino esterno, credo. Natalino, stavo ascoltando una cosa. Sì. Ma i tonni non c'è bisogno di inserirli? No, in ricezione no. Mamma. Cioè devo solo ascoltare, non devo trasmettere. Trasmissione. Aspetta, ho parlato sopra. Cos'è detto Natalia? Giafra? No. I toni servono solo in trasmissione, in questo caso. E in tutti gli altri casi dei punti amatoriali. Lo so, ma dico, dobbiamo solo ricevere, non devo trasmettere, quello già lo so che è così. Vabbè, tu devi ricevere, punto e basta. Dimmi quando posso trasmettere, se sei sintonizzato, 430 025, R1, e vedi un po' se ti arriva. Aspetta, ero 430, invece sono 430 025, hai detto un secondino, che mi centro. Allora, 430... Prova a parlare, dai. Ti ho fatto la chiamata, mi ha sentito? No, niente, muto. Natalino, tu ci hai provato? No, non l'ho sintonizzato, Gianfra, perché c'è il ricevitore che è fermo su una frequenza. Ah, qui c'è quel giocattolino, ho capito. Niente, niente, quindi neanche togliendo lo squelch. No, no, niente, butto, non sento niente. Vabbè, però è un giocattolo di antenna, Gianfra, non posso pretendere. Tra l'altro è attaccata al palo, l'hai visto? I radialini toccano quasi sul palo. Sì, c'è il solito furbacchione che sta mettendo la portante. C'è la portante, sta tentando di trastare. Non sei tu che stai premendo, no? No, io ho parlato in basso. Ah, non qua, è là, dai, cieco sul ponte. Niente, vabbè, attento, ma l'R0 com'era? L'R0 almeno lo senti. Mi devo scaricare le frequenze, se non me le dici io non me le ricordo. 145-600. Aspetta, mettiamo 145-600 e facciamo la prova. Prova, Giafra. Aspetta che sta arrivando, c'è un pochettino di... Ecco. Ci sono, ti chiamo sulla R0? No, con la Gianfra, saltiamo qua, e qua come arriva Gianfra? Sì, vabbè, comunque lo senti, S4 è molto basso, per la R0, è molto basso. Comunque, meglio di niente, almeno lo senti. Ma R0 è cosa? Monteraso, no? Sì, Monteraso è relativamente vicino. Vabbè, è già qualcosa che l'abbia ascoltato con questa antennina, hai visto un'antenna di un metro, non lo so per pretendere. Forse non ci arriva neanche a un metro, comunque, considerando la posizione dove è messa, le dimensioni dell'antenna, con l'altra dove lo ricevo, l'ho molto ma molto più forte. E te credo. L'altra è 5 metri di antenna. Ce l'hai inscatolata come c'ho la Game Master io, vabbè, ancora io l'ho aperta per vedere se mancava qualche pezzo. E poi l'ho richiusa. Adesso sto aspettando che faccia un po' di tempo come si deve per piazzarla. Sto aspettando l'altra antenna, così piazzo tutto insieme e via. Scusa Gaffra, una domanda tecnica. Utilizzando il cavo HDMI da DVI, per dire, il monitor, il televisore è un coso, c'è l'attacco di HDMI e c'è gli altoparlanti incorporati. Lo attacco alla presa DVI del PC, esce anche l'audio da quel coso, per cui non c'è bisogno di utilizzare le uscite audio. Se fa tutto sì, se è veramente un convertitore serio sì, se no attacchi al tram, ti devi arrangiare. No, perché ho trovato un monitor da 24 pollici, è un TV, non un monitor, non è HD, cioè non è di nuova generazione, di ultima generazione, ma non me ne ha fatti nulla, è HD però non è di due. Sì, stavo dicendo, quell'antenna è collegata via RG58, giusto? Sì, sì, infatti è un cavetto da niente, pure leggero. Sì, guarda, allora... se ne starà rubando non so quanti dB, sarebbe interessante calcolare quanto, ma penso che sia un'enormità. Tu pensa che per poter utilizzare il traliccio che è a 30 metri da qua ho dovuto mettere il Cellflex. Per ipotesi, se mettevo già un cavo tipo RG, quello grosso, come si chiama, 200, insomma quello che utilizzate voi per la 27 eccetera eccetera, da 5 watt che trasmettevo in UHF non arrivava niente in antenna, e in VHF metà potenza. E non vanno bene perché rubano, hanno troppa dispersione. Sì, non sono fatti per quelle frequenze lì, per le VHF o UHF ci vuole cavo bassa qualità che di qualità. Quello lì infatti con l'antenna la tengo solo per la T711 in diretta qua da Sassari, passaggi limitrofi, zone limitrofe. Ma non va neanche bene, ma guarda, proprio il minimo sindacale è l'H155, il minimo sindacale. Sì, ma non mi interessa attaccarlo, tanto c'è già il cavo, la calata e tutto, dovrei smontare, salire, non me ne fotti nulla, la tengo così per uso, diciamo, portatile, chiamiamolo, dai, per uso vicino, tanto no, quando siamo qua in città non c'è bisogno di avere grosse pretese. L'altra utilizzerò il cavo quello grosso, che ce l'ho già collegato. Sì, però ricorda che quando trasmetti poi questa RF così attenuata e così messa male, da qualche parte se ne andrà a disturbare, no? O no? Probabile, non lo so, ma non è che ci devo andare tutti i giorni. Quel momento lì magari cercherò di essere un po' più limitato e basta. Poi con l'antenna nuova c'ho il cavo grosso, quello buono, dai, non mi posso lamentare. Certo non è il Cerflex, ma più che bene, dai. No, il Cerflex non lo può neanche usare, è praticamente un tubo d'acqua. Io per piegarlo, il mio quello grosso per piegarlo, insomma, ci devi mettere il piede, piano piano accompagnarlo a fare una curva fina, perché è praticamente grosso, molto grosso. Poi c'è anche quello un pochino più fino, ma che c'ha lo stesso un'eccellente qualità, però anche quello è rigido. Per te di lì che la distanza non è così lunga, o ti metti una Camille, o ti metti un Mespaloni, o ti metti anche l'altra, non mi viene il nome, però cavi di altissima qualità sempre. Non guardare al prezzo sui cavi, sono l'antenna e come non averla. No, quello normale, no, ma io avevo messo il 213.000, costava di più, il doppio del normale, però ce l'ho tanti anni e grazie a Dio sta sempre andando. Naturalmente più sali frequenza e più cavi di qualità devi avere, a bassa perdita, eccetera, eccetera. Ma ce l'ho già il cavo, per il momento uso quello. Poi se si evolve l'impianto, mettendo magari qualcosa di più sofisticato, a quel punto valuti anche di mettere cavi specifici, diciamo, con le bande così alte. Ok, Natale, date il mic. E ti conviene mettere una Camille nella 7000, perché se no è sprecato, se non metti cavo buono, a bassa perdita è meglio che metti il cavo come si deve, perché se no è come che non ce l'hai quell'antenna. Se devi usare i punti, le cose, non è che vada tanto bene. Ah già, li apro lo stesso, tanto non credo che ci siano problemi. Quel cavo che c'ho non è un cavo altissima qualità, ma va bene, l'avevo messo da poco, non ha mai lavorato quel cavo. Sì, ma non è il poco molto, capito? Non c'entra niente il discorso, perché se anche hai comprato ieri, però le tabelle di attenuazione quelle sono e quelle rimangono, Non è che io posso capire se stavamo parlando di 10 metri di cavo, ok, ma se mi dicessi al primo piano che devi fare le curve, che le curve sono molto dolorose per quelle frequenze, già devi stare attento con i connettori, perché ogni connettore tu pensa che c'ha 0.5 di attenuazione, fate il calcolo. Sì, no, ma sarà massimo, guarda, di altezza da dove attacco il PL, considerando ci mettici 6 metri di palo, a scendere giù saranno 15 metri, non di più. Quanto? Massimo 15 metri dalla base dove attacco il PL, mi sto parlando. Secondo me ti conviene usare un metro. Guarda, te lo dico perché la distanza tra qua che sono al piano terra, la stazione, e il tetto, che quanto sarà? Fai 4 metri più il palo, fai altri 4 metri, siamo già a 8 metri, più altri 2 metri dentro la stazione, siamo già a 10 metri ed è praticamente un piano di distanza da su a giù. Ogni piano sono 3 metri. Buongiorno, buona domenica a tutti. Vabbè, ma ora ci vediamo in 15 metri, eppure già lo usi il metro. Ma se sono a piano terra io, e avevo permesso l'antenna, avevo una della finestra, sono 12 metri, no, 12 metri, tu hai 15 metri, mi ce ne sono almeno 25 di metri, se no 30 bus. Allora, io l'antenna ce l'ho esattamente sopra la testa mia, devo considerare 3 metri più 3 sono 6 metri, chiudiamo gli altri 6 metri di palo, sono 12 metri, te ne saranno 15, altri 2 metri di cube, il cavo c'è esattamente dove c'ho la tanta radio io. Vabbè, però mi sembrava un po' di più comunque. Vabbè, buongiorno a tutti. Divertitela, io gran ascolto. Ero sulle V7 Alfa con Vannino e con altri. Ciao Spagliero. Va, Claudio. No, no, ma io voglio mettere al caldo, poi c'è un mal di schiena allucinante, mi sta ammazzando sto mal di schiena. Adesso infatti domani mia moglie chiama, se riusciamo a fare una visita più accurata, perché sta sempre aumentando. È un casino, non riesco a fare più niente, ho un manicomio. Vabbè, dai. Ci sentiamo ragazzi, rimango in quel rich. Ma vado a svegliarmi un po' nel divano. Ciao. Ciao, grazie, ci sentiamo. Ok, ma chi lo dici, ma adesso poco fa, c'è sempre la caviglia che mi sta rivolando, guarda. È il tempo qua, purtroppo è un casino, poi non parliamo dalla cervicale, quelli sono tutte le cambiali che stanno arrivando del finestrino aperto, dei colpi presi anche in bici, vabbè, ma quello ne valeva la pena. È così purtroppo. Se muovici, riprendi Natalia. Perché da giovani facciamo gli spavaldi, poi alla fine il fisico ti chiede il conto. Hai ragione Natalia, così. Non è questione di spavalderia, ma già ne ho fatto, per carità, ma il mio lavoro era quello. Io stavo molto inchinato, soprattutto nell'ultimo periodo, perché ero adulterio, quindi le tue contattori, queste nicchie tutte a livello stradale, te lo inchinare, ginocchiare, al freddo, al gelo, piovendo, lascia per te. Da prima me ne dovevo andare, va bene, dai. Comunque, vabbè, allora la Camille ce l'ha, mi pare sia arrivato a Fusaro, che è caro, io non ne ho così tanto, vabbè, ne avrò 5 metri, 5-6 metri. Sono te l'avevo dato io. Va bene, dai, vi lascio, ci sentiamo più tardi se ci siete, altrimenti le prossime. Vai Roberto. Sì, grazie già. No, ma tanto ce l'ho già passato, 213 c'è già, ti dico dove ho messo la multibanda, è lì già sceso. Quando sarà, se ci sono grosse difficoltà, ne parliamo più avanti. Per il momento attacco quello che c'è già, c'è il PL, c'è tutto già pronto. No, non hai difficoltà, però chiaramente come ti ha detto Gianfranco, voglio avere qualcosa in più, capito? Mettendo un cavo buono, io ce l'ho la Camille, sia sulle V che nella 39, adesso poi ne prenderò, quando monterò la verticale, ne prenderò altre 20 metri e monterò sempre a Camille, perché non ho più. Va bene, dai, cambio per Gianfranco, fate girare, ci sentiamo più tardi, ciao a tutti. Aspetta, quanto costa la Camille? E gira, metto qua un attimo, ti dirò. Guarda, io ne avevo preso una matassa da 50 metri, e l'avevo pagata, mi pare che era spedita a 3 euro al metro. A me, 3 euro al metro. Sì, 150 euro, 5 per 3, 15, 150 euro mi era venuta la matassa a 50 metri, quindi l'avevo pagata a 3 euro al metro. Stai attento, fuori però, fuori da Media Globe me l'aveva mandata. Il signor Fusaro a Sassa ne vuole 4,50 euro al metro. E se ando mai? Ti do i prezzi. Allora, l'airbond 10 messi e peloni costa, che è di fabbricazione italiana, molto buono, 2,69 euro, è disponibile sempre da Media Globe. Il Belden a Camilla non è disponibile ed è 3 euro a metro. Il 155, che è della Bella, che è quello tipo il RG58, però molto molto meglio, è a 1,39. Poi c'è l'Hyperflex 10, che è più o meno come l'Airbon, che viene 3,50 euro, anche quello è disponibile. E poi c'è il Belden RG213, 1,79 euro, ma te lo sconsiglio per le frequenze alte, no? Meglio avere un capo buono, spendere una volta e essere almeno su quel campo, essere sicuri. Questi sono i prezzi. Sì, perché quel 213 al limite lo metto